Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera e benvenuti a Smart City. Se incrociate due getti d'acqua, questi si scontrano fra loro, ma se incrociate due fasci di luce come quelli che potrebbero uscire da due torce, questi si attraversano del tutto indisturbati. È un'esperienza piuttosto comune. Penso a quanti bambini giocano, no, alla spada laser con una torcia. Eppure riuscire a fare in modo che due fasci di luce possano interagire, per così dire parlandosi fra loro, potrebbe avere molte applicazioni. Ebbene, uno studio congiunto svolto dall'università canadese McMaster e dall'americana università di Harvard, pubblicato sulla rivista dell'Accademia delle Scienze degli Stati Uniti, ha mostrato che è possibile questo dialogo fra fasci di luce ricorrendo a una sorta di escamotage. Ne parliamo con Augusto Smerzi, che è dirigente di ricerca dell'Istituto Nazionale di Ottica del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Buonasera Smerzi, benvenuto a Smart City. Buonasera, grazie per l'invito. Allora, senta, le chiedo di rivelarci subito qual è questo escamotage, appunto, se così possiamo chiamarlo, a cui i ricercatori americani hanno fatto ricorso per permettere a due fasci di luce di parlarsi fra loro. Allora, la scoperta di questo gruppo è quella che esiste una sostanza gelatinosa che è composta da polimeri a catena lunga in soluzione acquosa, è una sostanza con la consistenza proprio della gelatina, attraverso la quale un fascio laser può passare senza disperdersi. Questa è stata la prima osservazione cruciale. Allora, se noi mettiamo un fascio laser nell'acqua o nell'aria, un fascio di luce, si diffonde, no? Si diffonde una nuvola luminosa. Quello che succede in questo caso è che la luce, passando attraverso questo gel, è come se si scavasse una galleria, formasse una galleria attraverso la quale passa, rimanendo confinata all'interno di questa galleria. Tra l'altro sono fasci di luce sottilissimi, vero, questi che vengono utilizzati? Ma sì, sono molto sottili, dell'ordine di una decina di micro, diciamo, della grandezza, della larghezza di un capello. E sono anche molto poco intensi, sono dell'ordine di milliwatt. Se penso a una lampadina e decine di watt, quello che siamo in caso, pensare ai milliwatt, una potenza piccolissima. La cosa interessante è che quando questi fasci vengono iniettati, si formano, si costruiscono da soli questo tunnel, questa galleria attraverso cui passano. Nel momento in cui il fascio viene spento, la galleria si richiude e quindi il cubetto di gel è di nuovo pronto per essere utilizzato di nuovo mandando altri fasci di luce. E questa è stata la prima interessantissima scoperta fatta da questo team. La seconda scoperta è che se si mandano due capelli, due fasci di luce molto sottili, no? Attraverso questo gel, anche a distanze significative, mettiamo distanze di decine di capelli fra di loro, per così dire, per cui i due fasci laser essenzialmente non si toccano, attraverso però il mezzo che attraversano riescono a comunicare fra di loro. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è il mio fascio di luce attraverso questo tunnel che sente la presenza dell'altro fascio di luce che passa nel tunnel adiacente. Quindi si influenzano a vicenda e modificano le loro proprietà, a secondo che il secondo tunnel sia attraversato da questi fasci di luce oppure no. Oppure si sia richiuso, no? E quindi la materia localmente viene modificata dal primo fascio e il secondo ne subisce le conseguenze. E così questi due fasci di luce sottilissimi si parlano fra loro. In termini di applicazioni, questo che cosa potrebbe significare? La cosa interessante è che questi sperimentatori qua possono mandare dei fasci continui di luce, però possono anche mandare dei fasci impulsati, possono mandare tante palline di luce attraverso questo gel. Allora, uno può pensare che una pallina rappresenti il numero 1, per esempio. Il vuoto, cioè l'assenza di palline, rappresenta il numero 0. Quindi si può codificare un codice binario. Se io codifico la mia informazione con questi pieni e vuoti, con queste palline di luce o assenza di luce, attraverso il mio gel, posso mandare poi un secondo fascio a modificare l'intensità della luce di queste palline. Cioè una pallina che la piena di luce presentava 1, posso diminuire la sua intensità tramite l'interazione col secondo fascio che attraversa il gel, in modo tale che l'1 si trasformi in 0. Allo stesso modo io potrei... E viceversa, insomma. Quindi... Parliamo di fare un calcolo. Esattamente, questa possibilità di modificare gli 1 in 0, 0 e 1, oppure di e cambiarli a seconda della sequenza specifica che lo sperimentatore manda, è come dire il mattoncino di costruzione del calcolo computazionale, insomma. Ecco, qui stiamo parlando di quindi svolgere dei calcoli che tipicamente svolgeremmo con un computer tradizionale, quindi con dei circuiti elettronici, parliamo di farlo con la luce, questo calcolo. Non è una novità che si cerchi di percorrere questa strada. Quali sono i vantaggi nel fare elaborazione usando la luce invece che, insomma, correnti elettriche o cose simili? Ma diciamo questo, che intanto la luce è molto veloce, no? Come sappiamo bene. Quindi in teoria potremmo fare risolvere dei problemi alla velocità della luce, per così certo. dire. In pratica, per iniettare la luce nella maniera giusta, chiaramente osserveranno dei controlli esterni. Quindi il laser deve essere manipolato o spostato, usato degli specchi. E tutto questo chiaramente introduce dei tempi. Certo. La competizione tra questa estrema velocità dell'elaborazione dell'informazione e la lentezza con cui questa informazione deve essere, può essere manipolata, no? Tramite gli specchi esterni, è un gioco che andremo a vedere se riusciamo a vincere oppure no. Tempistiche, lei pensa che se mai vedremo appunto questi calcolatori ottici, quali potrebbero essere delle tempistiche ragionevoli? Allora, io penso che il famoso concetto del proof of principle, il proof of principle significa riuscire a fare anche un'operazione semplicissima, però che dimostri che il dispositivo funziona. Anche fare 2 più 2 certo. sarebbe importantissimo, ci può farlo. Ecco, per far questo penso che i prossimi 5 anni riusciremo ad avere questo proof of principle. Se invece vogliamo andare a parlare di computer ottici che possono essere competitivi con quelli che già esistono, basati sui circuiti elettronici, lì è impossibile da dire. Allora, grazie a Augusto Smerzi, ma noi ci risentiamo domani per parlare di un'altra ricerca che sempre propone di affidarsi alla luce per il futuro, diciamo, della computazione, ma che ci porterà nel mondo del calcolo quantistico. Grazie Smerzi. Buonasera, a domani. Cari ascoltatori, ci fermiamo qui. Avete capito che ci risentiamo domani. Buona serata a tutti voi.